prima sentenza che lo priva di tutto, dalle sue medaglie al contratto con la Nike di cui è testimonial. Ma che cosa è successo davvero quella notte? Secondo Pistorius, quella notte c'è stato solo un tragico e fatale errore. Ma nella vita dell'atleta ci sono dei precedenti controversi. Colpisce a tutta velocità con un motoscafo la banchina del molo di Val River e si ferisce gravemente al volto. Trascorre una notte in carcere per aver ferito una blogger in un party a casa sua e poi ama le armi, come racconta l'ambasciatore italiano in Sudafrica Vincenzo Schioppa. Poco prima della terribile cosa che è accaduta aveva chiesto una licenza per un certo numero di armi, non certamente da collezione. È certamente vero che in Sudafrica è uso sparare molto facilmente, perché è un paese violento, un paese in cui ci sono aggressioni, c'è una cultura che ha permeato e permea ancora il Sudafrica di oggi, ma ci sono delle farm isolate in cui è impensabile non stare con un'arma. Il Sudafrica è il decimo paese al mondo per tasso di omicidi, con una media di 45 al giorno, ed è il primo paese al mondo per la violenza contro le donne. Il Sudafrica è purtroppo nelle classifiche dei crimini violenti che finiscono con un omicidio è in testa, assieme a pochi altri paesi come credo il Venezuela, la Bolivia. In Sudafrica un crimine su sette finisce con un omicidio, come disse una volta il presidente Zuma. Sudafrica è un paese africano in cui probabilmente c'è la corruzione, è verissimo, però è un paese africano nel quale della corruzione si parla e la si sbatte in prima pagina sui quotidiani e in televisione. Ma chi è veramente Oscar Pistorius? A parlarne è l'unico uomo che ha intervistato l'atleta dopo il suo arresto, il giornalista, ex agente di Scotland Yard, Mark Thomas Williams, che dopo aver condotto un'inchiesta sul caso per il Sunday Mirror ha dichiarato di credere nell'innocenza di Pistorius in un'intervista rilasciata in esclusiva per Mix 24 a Rachele Bonanni. I think Pistorius is an extremely well-driven man. Credo che Pistorius sia un uomo dotato di autocontrollo che è eccelso nello sport come atleta professionista, dopo aver superato molte difficoltà fin da piccolo. Ho trascorso molto tempo con la famiglia, prima e durante il processo, e questo mi ha permesso di capire quanto sia unita e sostenga Pistorius. Il ragazzo nasce a Johannesburg il 22 novembre dell'86 ed è affetto da una malattia rara, l'emimelia fibulare, che lo priva dell'osso fra ginocchio e caviglia. Gli vengono amputate le gambe a 11 mesi con un'operazione ortopedica d'avanguardia eseguita da Gary Versfeld, che gli attacca i talloni subito sotto i ginocchi permettendogli di camminare anche senza protesi. Ma che cosa significa vivere con le gambe artificiali? Lo racconta Alessandro Curis, campione paralimpico di salto in alto. Beh, a 17 anni io ad esempio ho perso la gamba in un incidente con la moto, avevo seri dubbi su come avrei affrontato la vita con questo problema. Certo non pensavo che avrei potuto tornare a fare sport come prima. Poi una volta presa casualmente la possibilità di gareggiare come disabile, ho immesso e raddoppiato l'impegno, pur con tante difficoltà legate soprattutto all'utilizzo di una protesi idonea. Pistorius vive le comodità dell'alta borghesia bianca del Sudafrica, il padre è un uomo d'affari, la madre si occupa essenzialmente di lui spingendolo verso una vita più normale possibile. I due divorziano quando Oscar ha solo 6 anni. Siamo cresciuti con mia madre, era molto premurosa con noi. Voleva che io facessi sport e che non mi sentissi diverso dagli altri. Non voleva che la mia disabilità fosse qualcosa che mi lasciasse indietro. Mi ha spinto a praticare sport e altre attività per crescere sicuro di me. La donna riesce a iscrivere il figlio in un famoso collegio, il Pretoria Boys High School. Ed è qui che il ragazzo comincia a praticare sport.

il giudice Masipa accetta la richiesta d'appello fatta dall'accusa alla Corte Suprema. Per Pistorius si apre una nuova sfida.